24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 17 minuti, 50 secondi, la terza parte di 24 Mattino. Una buona giornata di nuovo da Simone Spezia. Maria Latella, eccoci, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Che ci possono raggiungere come sempre al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi WhatsApp, audio e anche scritti ovviamente all'800-24-0024 per intervenire in diretta. Parleremo più avanti della questione nave Gregoretti dopo il voto ieri in giunta che ha dato di fatto il via libera al processo a Matteo Salvini per sequestro di persona per il blocco di nave Gregoretti nel luglio scorso e il Senato che voterà il 17 febbraio, ma insomma è abbastanza naturale che poi darà comunque il via libera al processo. Beh, vorremmo sapere che cosa ne pensate, eh? Si trattò di sequestro di persona, non si trattò di sequestro di persona? Soprattutto cosa pensate di questa cosa surreale per cui non si capisce chi voleva Salvini al processo non ha partecipato al voto, no? Avete sentito anche nei TG, anche al nostro GR, la voce del capogruppo del Senato Marcucci, e invece, del PD. E invece chi difendeva ovviamente il suo leader Salvini, la Lega, ha votato per il processo. Così è, se vi pare, citiamo Pirandello. Cioè, senza contare il terzo elemento che è quello del Movimento 5 Stelle, già sottolineato nelle settimane scorse, ossia che nel caso di nave 18 votò appunto contro il processo a Salvini, mentre invece nel caso di nave Gregoretti, molto simile, anche se ci sono delle differenze di coordinamento all'interno del governo, sostiene il Movimento 5 Stelle, invece appunto voterà a favore. È l'altro spunto, insomma. Vi aspettiamo su questo. So, Maria, che ti sei concentrata un po' questa mattina e ieri sul tema di Davos, di questi grandi leader mondiali, il gota dell'economia mondiale che torna a riunirsi. 50 anni, la 50esima edizione di Davos, e anche qui sembra una condanna del nostro tempo, Simone, anche qui così è se vi pare. Allora, miliardari e ultramiliardari che da tutto il mondo arrivano pagando, perché sia ben chiaro, chi va a Davos paga. Mi dicono 200.000 euro, non lo so se sia così perché io ci sono andata una sola volta e certo non pagando 200.000 euro, comunque pagano questa cifra. Quindi non stai ancora pagando il mutuo per la partecipazione. Quando sentite dire magari in qualche intervista TV eccetera, sì, vi parlo da Davos, i banchieri che vanno lì pagano. E come disse qualche anno fa l'ironico sulfureo Jamie Dimon, il grande capo di JP Morgan, Davos è un posto dove gli ultramiliardari del mondo spiegano ai milionari del mondo che cosa vuole la classe media. È un enorme, gigantesco teatro dove appunto i miliardari e quelli che vorrebbero entrare in un grande giro fanno networking. La cosa bizzarra è che appunto anche quest'anno si parla del tema di moda, perché Davos sceglie sempre il tema di moda, quest'anno ovviamente non può che essere il cambiamento climatico, e tutta questa gente arriva da tutto il mondo ovviamente con l'aereo privato, quindi dando un contributo essenziale al cambiamento climatico. Sono curiosa di vedere se la giovane Greta, che è attesa ovviamente, essendo lei ormai parte di questo grande circo di miliardari, più o meno, ormai frequenta soltanto il principe monegasco Pierre. Oh, ti sta proprio sulle scatole, Greta, Maria? Guarda, credo che sia un esempio di messaggio giustissimo, perché ragazzi, cioè, è una cosa così banale dire che negli ultimi 50 anni abbiamo messo a rischio questo pianeta. Dice un messaggio giustissimo? Giustissimo, ma appunto indirizzato, utilizzato da formule di marketing globale che sanno di ipocrisia, perché se tu continui a parlare del cambiamento climatico a miliardari di tutto il mondo, che per carità possono fare qualcosa, ma in realtà la faranno giustamente, no? Seguendo quelli che sono le necessità delle loro dimensioni di business. Dunque, sai, tu puoi benissimo lanciare dei messaggi a Davos, ma ripeto, la platea è quella sì. Che è. Però dai, non li ha lanciati solamente a Davos. Questa cosa contro Greta, sinceramente, non la capisco. No, ma non è contro Greta. Non la capisco. No, Simone, non è contro Greta. È comunque. Che mi rifiuto di accettare l'ipocrisia del messaggio. Ha smosso le coscienze. Ha smosso le coscienze su un tema che ritiene importante. Ma noi tutti lo riteniamo importante. E allora, quello basta, che, perfetto. Quello che trovo come dire, un po' irritante è prenderci in giro con la storia che lei va a New York col catamarano perché non prende l'aereo, va col catamarano di Pierre di Monaco. Vabbè, ancora con questa storia, principe dai, del principato di Monaco, che proprio, come dire, non però è una nave a impatto zero, però è una barca a impatto zero comunque, insomma, quindi io trovo che sia ipocrita, su questo ci dividiamo, sia su questo la ci comunicazione dividiamo. E trovo un po' ipocrita appunto questo grande circo che comincia ora a Davos, dove per carità i concetti espressi sono assolutamente condivisibili. L'anno scorso ci fu il tema della parità di genere, sono tutti concetti che condivido. La cosa che mi fa sorridere è che appunto se la raccontino tra di loro ogni anno c'è il messaggio che sono lì il 2% dei ricchi della terra che possiedono quanto milioni di poveri, e poi ogni anno è la stessa manfrina. Torno a dire, condivido totalmente il pensiero di Jamie Dimon di JP Morgan, che almeno non era ipocrita, quando ha detto Davos è il Barnum dei miliardari del mondo che spiegano ai milionari del mondo che cosa pensa la classe media. Vabbè, a proposito di ambiente, l'ha giustificato tutto questo ragionamento anche come una questione ambientale, non solo come una questione di rispetto. Beppe Sala, parliamo di questa idea, di questa proposta, che arriverà a breve, cioè andrà in atto a breve, ne parlerà il consiglio comunale eccetera eccetera, di vietare il fumo alle fermate di tram e autobus, e con quest'ipotesi che ha lanciato Sala di vietare il fumo anche allo stadio di San Siro. Qualche ascoltatore ci ha scritto prima, dice: guardate che all'Allianz Stadium, quello della Juve, è vietato da tempo, però l'Allianz Stadium è uno stadio privato, cioè è di proprietà della Juventus, e là dentro ovviamente ci decidi quello che vuoi e non devi rispondere a degli elettori che a un certo punto ti dicono: vabbè, ma hai vietato di fumare allo stadio e io ti voto contro. Quindi la proposta è abbastanza coraggiosa. Sentiamo Sala, va. Ma insomma, il concetto è sempre, però quando parli di spazi aperti, se mi fumi di fianco, lasciami dire, mi dà fastidio, ho la libertà di spostarmi. Se sono in fila, se sono la fermata, se sono allo stadio, non ho la libertà di spostarmi. Quindi da questo punto di vista è una restituzione di diritti a coloro a cui il fumo come minimo dà fastidio, probabilmente fa anche male, e non hanno possibilità di evitarlo. No, tra l'altro oggi sarà il ministro Costa a Milano, insomma, che su questo si è espresso e non si è espresso, ha detto e non ha detto, serve, non serve. È da tempo così, nelle strade degli Stati Uniti anni fa si vedevano impiegati che scendevano intirizziti con 5 gradi a fumarsi una sigaretta, adesso se ne vedono anche meno, perché anche per strada ti guardano male e insomma non lo puoi fare. Mi pare soprattutto il messaggio, mi pare un messaggio di attenzione, e credo che poi la maggior parte delle persone sia d'accordo con questo. Dopodiché vorrei dire che lo stesso soggetto che non può fumare in coda, quando la sera va a casa e accende una delle meravigliose serie televisive fornite da tutti i vari, adesso non voglio farne, non voglio fare citazioni, ma insomma da tutti i vari provider, ecco, tutte queste serie televisive sono un inno al consumo di alcol e di sigarette. Persino in The Crown, la serie sì, TV, però, di cui io e Paolo Mieli siamo affezionatissimi. Sì, sì, però Maria, The Crown parla del passato. Ho capito, però parla del passato, parla del passato. Che devi fare? Cioè, prima era così, vogliamo fare una rappresentazione falsa del passato. In passato no, si beveva e si fumava di più, punto sì, e basta. Si beveva, insomma, si fumava, però è anche un po' eccessivo, perché bevono e fumano, ma non soltanto in The Crown, in tutte le serie TV costantemente. E un nostro ascoltatore qualche giorno fa faceva proprio notare questo: tu puoi fare le campagne, e quella del sindaco Sala mi sembra anche una campagna giustificata, dopodiché però il messaggio che arriva a casa a quegli stessi è: fumate tutte le sigarette che volete. Quindi anche qui c'è La tella, due punti, fermiamo il fumo nelle serie TV. Pausa. Mattino. Per me Salvini ha tutte le ragioni. Provate voi ad andare in un altro paese senza i documenti, come illegale, poi vediamo cosa succede. E poi non capisco perché nessuno parla della nave tenuta ferma durante le elezioni in Umbria, il governo del PD 5 Stelle. Lì nessuno ne parla, tutto regolare. Che due balls, Salvini. L'unica cosa che potrebbe scrivere sono le mie ricette, che sono un bruttismo della cucina. Per l'amor di Dio, ma un po' di pausa, no, con questo personaggio. Salvini applica una massima di Oscar Wilde. Oscar Wilde diceva: non importa che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli. Lui in campagna elettorale non fa altro che attirare l'attenzione su di sé, facendo la vittima. Ciò attira sia le ire di chi lo odia, ma attira ancora di più i suoi possibili elettori. Ma se in tutti i tribunali c'è ben scritto la legge è uguale per tutti, come mai per Salvini si deve decidere o meno se andare a processo? E dunque avrete intuito forse di che cosa stiamo per parlare, della decisione della giunta e delle autorizzazioni ieri su Matteo Salvini, la decisione di mandarlo a processo con voto determinante esattamente dei parlamentari della Lega su indicazione dello stesso Salvini. Al nostro ascoltatore che dice: come mai se la legge è uguale per tutti, per Salvini? Beh, intanto perché Salvini è un parlamentare e quindi non può essere mandato a processo se non c'è prima questo duplice passaggio, prima della giunta delle autorizzazioni a procedere e poi del Parlamento. È una cosa che vale per tutti i parlamentari, non è una cosa speciale per Salvini. Chiariamolo ai nostri ascoltatori. Beh sì, cioè, certamente. Non è detto che tutti e vale in particolare sapere. E vale in particolare nella fattispecie per un ministro. Gregorio De Falco, il Movimento 5 Stelle, buongiorno, benvenuto. No, buongiorno, posso correggerla, io sono del gruppo misto. Gruppo misto adesso, scusi, abbia pazienza. Cioè, mi sono perso un po' per strada con i passaggi. Guido Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d'Italia. Buongiorno Crosetto, benvenuto. Buongiorno, io invece ormai sono fuori. Sì, lo sappiamo, infatti ho detto fondatore che è il passato, è una battuta. abbiamo la straordinaria occasione, lo dico ai nostri ascoltatori, quindi di sentire due punti di vista che non rappresentano direttamente una forza politica, nel senso che Crosetto è sempre lì vicino alla sua amica Giorgia Meloni, ma non fa politica attivamente, e De Falco, che ha cominciato a fare politica col Movimento 5 Stelle, poi se n'è distaccato. Vediamo se grazie a questa condizione si riuscirà ad avere un punto di vista, appunto, che faccia capire qualcosa ai nostri ascoltatori, perché come dicevamo prima, in queste ore si assiste un po' a una dimensione surreale, pirandelliana, così è se vi pare. Chi voleva il processo a Salvini, Partito Democratico e recentemente 5 Stelle, ha lasciato l'aula e non ha preso parte alla votazione. chi invece difendeva il suo leader, la Lega, ha votato perché il processo ci fosse, Forza Italia e invece Fratelli d'Italia sono rimasti come dire, fermi sulle loro posizioni e quindi hanno votato contro il processo. Quindi comincerei proprio da Crosetto. Qual è il suo punto di vista? Lei non è in Parlamento, però un punto di vista ce l'ha. Giusto, i giudici ritengono che Salvini dovesse andare a processo, ma la Procura della Repubblica no, la Procura della Repubblica non riteneva che si dovesse andare a processo. Quindi in tutta questa ingarbugliata situazione, che tra l'altro ha un altro precedente, quello della nave Diciotti, lei che idea si è fatto, che opinione ha? Guarda, io ho un'opinione che innanzitutto prescinde dal soggetto, perché noi stiamo parlando di Salvini e quindi l'Italia si spacca in due, chi lo odia e chi lo ama, mentre invece io preferisco parlare di un atto fatto da un ministro degli interni mentre espleta le sue funzioni, cioè di una decisione politica passata per il vaglio amministrativo della burocrazia ministeriale, che la decisione politica diventa un atto formale, redatto, scritto, visto, considerato, pareri legali dall'ufficio, dal legale del ministero, dal gabinetto, da vari uffici dove è passato, che alla fine diventa un atto che esprime la volontà politica di un ministro, ma diventa un atto del ministero, che quindi prescinde dal nome di chi lo ha firmato. Quello è l'autore della volontà politica. Ma qui stiamo giudicando l'atto di un ministro che non è un furto, non ha rubato, non ha preso tangenti su un appalto, ma ha esplicitato attraverso un atto ministeriale la sua volontà politica che tutti conoscevano. Il vaglio della legittimità o meno avviene attraverso la struttura burocratica del ministero, perché è un atto ministeriale, non è un Salvini che fa un fischio e ordina una cosa come qualcuno pensa. Per cui la Giunta in teoria deve giudicare l'atto del Ministero degli Interni senza nomi, cognomi, senza partiti, perché altrimenti il voto in Giunta si trasforma in un calcolo che se può servire o meno alle elezioni regionali. Noi distruggiamo le istituzioni che sono più importanti di Salvini e di qualunque altra cosa, sono più importanti di qualunque scontro personale. Io sono stufo di avere una politica o un Parlamento che decide in base ai nomi delle persone e in base al rispetto delle istituzioni che quelle persone anche solo pro tempore rappresentano. Questo secondo me è il discorso che nessuno fa su questo punto, che invece andrebbe fatto. Spunto interessante quello di Crosetto, De Falco. Lei che dice? Io sono d'accordo con Crosetto. Ah. Sulla conclusione, cioè che le persone sono molto meno importanti delle istituzioni. Non c'è dubbio, e anche sono d'accordo anche sul fatto che non bisogna valutare la persona con quel nome, ma il comportamento oggettivamente considerato in sé. Però detto questo, sono in disaccordo con tutto il resto, perché ho la conoscenza diretta dei fatti, che forse sfuggono, necessariamente sfuggono, perché quegli atti possono essere visti soltanto dai componenti della Giunta, oltre quelli che sono resi pubblici perché sono contenuti e sono allegati ai documenti del Tribunale di Catania. Allora, in realtà, purtroppo, se fosse come dice Crosetto, sarebbe la fisiologia dell'azione amministrativa ordinaria. Purtroppo non è così, e questo è il punto. Ma a testimoniare tutto questo c'è un elemento fattuale, ordinamentale, che è chiarissimo: il decreto sicurezza bis. Il decreto sicurezza bis, nel primo articolo, prima parte del primo comma, esclude che il ministro dell'interno possa interferire, diciamo così, con le operazioni di soccorso poste in essere dalle navi militari o dalle navi in uso governativo. Quindi questo tipo di azione posta in essere dal ministro dell'interno non consegue, come diceva Crosetto, purtroppo dico io, non consegue ad un ordinario procedimento amministrativo. Già qui è chiaro, e sono d'accordo con lui, che sarebbe un ordinario procedimento amministrativo, non un atto politico, ma non consegue neanche a quelli. Perché? Perché lo stesso decreto sicurezza bis, che è la volontà del governo trasfusa in un decreto legge, esclude che vi possa essere un'interferenza in questo senso del ministro dell'interno su nave militare. Ecco, la nave militare non può essere, quindi già qui abbiamo un esorbita l'atto, quale sia l'atto. Ecco, tra l'altro, all'interno della giunta, a un certo punto, e questo è importante, fu fatta una serie molto modesta, per la verità, di richieste istruttorie, giorno 9 giugno. Una di queste era appunto tendente, nel senso indicato da Grosetto, a individuare quale fosse stato l'atto, provvedimento, volto a trattenere a bordo queste persone, naufraghi, sulla nave militare. Questo atto, questa istanza, doveva essere accolto, perlomeno doveva essere considerata nella sua utilità sostanziale. Cioè, se, come dice Grosetto, si arriva a questo provvedimento alla fine di un procedimento amministrativo con un consiglio legale, eccetera, eccetera, beh, da qualche parte ci sarà scritto. Non c'è. C'è soltanto un atto ex post, il 31 luglio, del Nucleo Sbarchi, si chiama così, NCC, che è un, diciamo così, un ufficio, è un nucleo, anzi meno di un ufficio, un nucleo che è all'interno del Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione. Questo nucleo dice: per disposizione del Ministro dell'Interno si autorizza lo sbarco 31 luglio. Ma non c'è nemmeno l'atto scritto provvedimentale di autorizzazione allo sbarco. Guardate che in queste vicende, in queste due vicende, sia 18 che Gregoretti, la caratteristica costante è che appunto le gerarchie amministrative di cui parla Grosetto e che io ritengo siano necessarie sono state, diciamo, bypassate e poste in cortocircuito. Lo dice il Tribunale dei Ministri quando, anzi veramente erano le indagini della Procura di Agrigento, quando dice: tutta la catena amministrativa prefettizia. Allora sì, mi scusi, però De Falco, lei ha fatto un riassunto molto accurato. Mi fa capire però perché la procura, stiamo parlando dunque di magistrati, secondo la procura in questo caso non si doveva andare a processo, cioè la procura aveva chiesto di chiuderla l'inchiesta sulla ultima nave. Sia nel caso Diciotti che nel caso Gregoretti la procura arriva alla conclusione della necessità di archiviazione sulla base di una valutazione che in realtà pertiene appunto alla Camera d'appartenenza. Dice: è un fatto politico e quindi va archiviato. No, è un fatto politico, lo deve dire la Camera d'appartenenza, cioè o la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica. Ok, chiaro De Falco, mi scusi, la interrompo un attimo e poi andiamo a risentire Crosetto per innanzitutto per specificare qualche ascoltatore dice mi sono perso, no, per nel sentire il suo riassunto, perché era un riassunto, come diceva anche Maria Latella, molto puntuale. La faccio molto secca e molto breve. Il tema è, dice De Falco, è che queste decisioni, sia nel caso della Diciotti che nel caso della Gregoretti, non sono passate attraverso tutti quegli uffici amministrativi interni al Ministero e non solo, che permettono di far sì che quell'atto poi sia legittimato in qualche modo, che da quegli uffici arrivi una voce che dice: guarda, se fai questo rischi un'incriminazione. Insomma, quindi ci si è mossi tramite vie che non sono esattamente quelle standard, no De Falco? Questo ho capito. Di precisare, volevo anche sottolineare, marcare una differenza nettissima che c'è tra Diciotti e Gregoretti, che è appunto il quadro giuridico di riferimento. L'entrata in vigore del decreto sicurezza bis impone in realtà un limite in più all'agire del Ministro dell'Interno, perché dice: il Ministro dell'Interno dei navi militari non può occuparsi. E quella, lo sappiamo, è una nave militare. Crosetto che dice? No, dico che è impossibile, cioè nel senso che non possono essere dati comandi a voce e quindi probabilmente qualcuno, io non ho letto, come dice giustamente il senatore Falco, non ho letto gli altri perché non faccio parte della Commissione, quindi giudico per ciò che leggo sui giornali e per ciò che conosco della vita dei ministeri e di come funzionano i ministeri. Non è che gli atti si formano perché alza il telefono un ministro, gli atti hanno sempre dei percorsi formali. Se è stato sbagliato un percorso formale, di questo, come sa benissimo Le Falco, non puoi imputarlo al vertice politico, perché dalla Bastanini in poi c'è una separazione tra la decisione politica e la prassi amministrativa, per cui è surreale per questo la vicenda. Secondo, tenete conto che stiamo, perché il processo è intentato per sequestro di persona, non per mancanza di atti di formalità amministrative. cioè per sequestro di persona, cioè è stato dato a una decisione politica criticabilissima, volendo, di Salvini una valenza giuridica penale, cioè il sequestro di persona. Io non faccio sbarcare le persone fin quando non sono ricollocate o fin quando non ho accertato che non ci siano criminali, diventa sequestro di persona. E questo passaggio che noi stiamo giudicando, capite? Per cui non è che stiamo giudicando l'iter amministrativo. L'iter amministrativo è il modo con cui si forma la volontà politica. Ma è quello, se ci sono stati degli errori qualcuno dovrà pagare, ma soprattutto nella parte burocratica. Lui è accusato di sequestro di persona, che è un'altra cosa. Cioè è il tentativo di attaccare giudizialmente una persona che non si riesce a attaccare politicamente. Ed è questo ecco, l'errore. A proposito di politica, scusate, vorrei chiedere brevissimamente la vostra opinione. Quello che è andato in onda ieri, vale a dire la non partecipazione al voto di Giunta del Partito Democratico, di Italia Viva, insomma di tutta la maggioranza, e invece il voto che c'è stato da parte della Lega a favore del processo e Forza Italia e Fratelli d'Italia invece contro, in questo fedeli alla decisione che avevano preso. Secondo voi avranno un'influenza sul voto di domenica in Emilia e forse anche in Calabria, sì o no? Chi parla? Vada De Falco, brevemente però, se sì perché, sì, se no perché, e ma io poi devo, vorrei sentire devo ovviamente però, Crosetto anche. Devo però prima correggere se possibile, perché il Crosetto diceva che l'oggetto è di valutare, l'oggetto che si ha davanti la Giunta e l'Assemblea, è di valutare se sia o no un sequestro di persone. Questo oggetto invece è esattamente l'oggetto del giudizio al quale evidentemente si deve valutare se sottoporre o meno il ministro Salvini. Oggetto del giudizio invece della Giunta e dell'Assemblea è se sia sussistente un interesse costituzionale o un preminente interesse pubblico, preminente rispetto al diritto che si ipotizza sia stato compresso da parte della Giunta. Però ho capito, lei è bravissimo nel dare la cosa, però io le ho fatto un'altra domanda. La mi domanda risponde? Io confido che la gente non si faccia trarre in inganno da questi balletti. L'assenza di alcuni componenti, particolarmente i 5 Stelle, il PD, Italia Viva e anche del gruppo misto, dalla Giunta è stata necessaria per evitare di legittimare un andamento scorretto dei lavori. Se vuole poi mi dilungo su questo. Ma non crede nessuno, De Falco! È stata legittimata dal fatto che non si voleva dare risalto a questa cosa, ma che nessuno ci crede, è un pretesto questo. È un pretesto? Allora ascolti, ma sì. il Presidente della Giunta, se vuole a questo punto devo rispondere, il Presidente della Giunta ha evitato addirittura di accogliere istanze istruttorie, cioè richieste di modestissime approfondimenti sul punto di fatto, che erano anche a vantaggio eventualmente dell'inquisito. Ma scherziamo. Tutto questo, 4 istanze istruttorie presentate dalla Ginetti, dalla collega Ginetti, 2 presentate dal Presidente Grasso e 1 addirittura dal senatore Augusto Ori della Lega. Guardi che è lo stesso, ma è lo stesso Presidente Grasso che oggi lo dice parlando con i cronisti. Allora, Grasso l'ha detto, ha detto abbiamo fatto questa scelta perché c'è il voto del 26. L'ha detto Grasso. Su. Allora, per evitare, ma è per evitare una speculazione sul voto da parte del ministro, dell'ex ministro Salvini. Questo è il punto. Anche perché altrimenti non si spiega come il calendario fosse stato fissato 8-20. A un certo punto interviene un fatto nuovo, che è la decisione della conferenza dei capigruppo di sospendere i lavori dell'assemblea e quindi di consentire ai parlamentari di fare campagna elettorale tra il 20 e il 24. Ok? Questo valeva per tutti i parlamentari italiani, della Camera e del Senato. Però a questo punto si è detto che non dovesse valere per la Giunta. E allora la fretta di giungere, in quel momento il termine era ancora considerato ordinatorio per sentenza della Corte Costituzionale del 94. Sì. A questo punto la fretta di giungere alla decisione prima delle elezioni significava proprio la volontà chiarissima di strumentalizzare le vote allora l'impressione di Falco, guardi la dico brutale io, l'impressione è che da tutte e due le parti questa vicenda si sia voluta strumentalizzare. Crosetto, rapidamente, come la vede? Che comunque si sta cercando di piegare la giunta, le decisioni, i lavori della giunta alle elezioni in Emilia Romagna, appunto, da una parte e dall'altra. Sì. E la cosa è vergognosa, perché quando si toglie credibilità alle istituzioni non è che si guarda se si toglie la destra o la sinistra, intanto la si toglie alle istituzioni, che sono quelle, sì, che dovrebbero rappresentarsi e proteggersi. Quindi è una vergogna a tutte e due le parti. E toglie dal centro della scena l'oggetto della campagna elettorale, che è il governo dell'Emilia Romagna. Esatto, sono due cose diverse. Ciò detto, secondo me, la domanda di Maria Ratella avvantaggia Salvini, perché lo fa passare in questo momento come vittima. Siccome gli altri dicevano non vuoi andare a processo, vuoi esimerti, lui si è fatto votare, si è fatto mandare a processo dei suoi, quindi questa settimana avrà le stigmate della vittima, no? Che per difendere l'Italia, come sempre detto, cito le sue parole, dall'invasione di un'immigrazione incontrollata, è disposto anche a sacrificare la propria libertà personale. Ma non siete tanto alleati allora voi di Italia Viva, di Italia Viva, voi di Fratelli d'Italia, eh? Perché? Scusi. No, con rispetto, io lo dico, guarda che io lo dico con rispetto, perché ci vuole coraggio ad affrontare la giustizia in Italia, eh? Io lo considero un atto che ha sbagliato a fare, perché doveva tutelarsi, perché ha agito come ministro. Quindi ha sbagliato, e difatti la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno votato contro questa cosa. Ha sbagliato lui a far votare la Lega a favore, perché non doveva continuare a difendersi perché ha agito come ministro. Ciò detto, ci vuole un grandissimo coraggio ad affrontare la magistratura in Italia, perché io non sono così certo di una totale dipendenza di tutti i magistrati. Due voci degli ascoltatori. È una volta Salvini scappa dal processo, un'altra no, ma si fa processare per farsi pubblicità. Ecco, bisogna sempre dire il contrario, bisogna sempre creare il nemico. Salvini ha deciso di farsi processare per vedere una volta e per tutto se la sua azione da ministro è legittima o meno. Però è proprio ridicolo, si chiama phishing per i poveri italiani, no? Questa questione, vado, non vado, condannatemi, non condannatemi, condannatelo o no, è un tecnicismo abbastanza difficile da comprendere per i più, e doveva stare all'interno di certi ambiti, e purtroppo qualcuno lo usa come la ruspa. Maria, vai. Abbiamo ancora un volevo minuto e mezzo. Volevo chiedere un'altra cosa a De Falco. Mi pare che ci siano altri abbandoni nel suo ex Movimento 5 Stelle. Secondo lei ce ne saranno ancora? Ci sono altre uscite? Ha notizia di altre uscite dal suo ex gruppo parlamentare? La verità, non ho notizie, ma credo che però abbia ragione, nel senso che ci possono essere, ed è probabile che ci siano, ulteriori uscite, in quanto mi sembra che il capo politico stia sostanzialmente tentando di tenere ferma la situazione, che però inevitabilmente, poiché comunque la struttura rimane verticistica e oligarchica, inevitabilmente la struttura, cioè la frana un pochino continua, ecco. Io non credo però che si arriverà a una implosione, a questo momento mi sembra che si arriverà forse prima ai cosiddetti stati generali e poi a quel punto ci sarà una svolta. Sì, tipo una specie di congresso. Grazie Guido Crosetto, grazie Gregorio De Falco per essere stati con noi. Chiudiamo, Maria, ci sentiamo domani alle 8:20 ovviamente. A domani allora. Grazie anche a Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione. Margherita Aina e Francesco Ceraffo, i nostri autori. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Una buona giornata da Simone Spezia.